cantanti elettrici al metro, chi si diverte come può, sul palcoscenico che va, che gira intorno alla città, che gira intorno alla città, e i soldi beato chi ce l'ha, ma i sentimenti quelli no, comprarli certo non si può. Oh ballerina, danza con me. Certo non si può, però affittarli perché no? Chi li conserva in allegria, chi piange, chi li butta via, chi butta via la vita e chi ricomincia lunedì, e un'altra storia se ne va e gira tutta la città. Ballerina, danza con me. Oh ballerina, danza per me. Così beviamo un altro po', che tutto passa e se ne va. Fantasmi antichi sul Como, che parlano di libertà, e parlano di libertà, e giocano con gli occhi tuoi, e una bambina se ne va, e tu salvarla no, non puoi. Chi pensa e poi ci beve su, e c'è chi non ci pensa più, sul palcoscenico che va, che gira intorno alla città, che tira avanti elettroshock, che poi si fa il concerto rock.